Europa 24. Buongiorno da Adriana Fracchi e ben ritrovati per l'appuntamento con Europa 24. Oggi abbiamo la possibilità di toccare con mano il sostegno concreto alla proposta dei Compact, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano a margine del Consiglio Interni UE a Lussemburgo. Si tratta di una proposta globale perché prevede sostegni in Africa e capacità di accoglienza per i rifugiati in Europa e al tempo stesso forza politica e organizzativa nel rimpatrio degli irregolari. Questo è un piano ambizioso e organico al tempo stesso e oggi contiamo di ottenere il sostegno sperato. Oggi abbiamo la possibilità di toccare con mano il sostegno concreto ad una proposta che è quella del Migration Compact, che è globale perché prevede sostegni in Africa e capacità di accoglienza per i rifugiati in Europa e al tempo stesso forza politica e organizzativa nei rimpatri degli irregolari. Questo è un piano ambizioso e al tempo stesso organico e quindi contiamo oggi di ottenere il sostegno sperato. Il caso vuole che i campionati europei di calcio si aprano oggi a Parigi, proprio mentre i ministri degli interni dei 28 tengono qui in Lussemburgo una riunione ministeriale. All'ordine del giorno la modifica di una direttiva con l'obiettivo di limitare il più possibile l'acquisto e il possesso delle armi da fuoco. Il testo prevede una maggiore tracciabilità delle armi stesse, anche se nel fare la sua proposta la Commissione europea ha dovuto fare i conti con le esigenze di collezionisti e cacciatori. Una volta approvata dai governi, la proposta legislativa dovrà essere negoziata con il Parlamento europeo. Il timore di attentati durante questo mese di partite di calcio in Francia è stato evocato dai ministri. Il rappresentante francese si è voluto rassicurante, ha spiegato il ministro degli interni italiano Angelino Alfano. Il governo francese ha dispiegato un impressionante dispositivo di sicurezza. 13.000 agenti di sicurezza, 42.000 poliziotti, 30.000 gendarmi, 2.500 pompieri, 300 sminatori. Secondo il quotidiano Le Monde, per motivi di sicurezza, 300 persone sono state escluse dall'organizzazione sulle 80.000 chiamate a gestire la manifestazione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Siamo a favore del piano della Commissione UE per accordi con i paesi africani e mediorientali per il controllo dei flussi migratori perché cerca di dare una soluzione alla radice del problema. Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'interno slovacco Kalinak a margine del Consiglio degli interni UE a Lussemburgo. La Slovacchia da luglio sarà la presidenza di turno del Consiglio UE. Mancano solo 20 giorni al cambio della guardia alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Si andrà da quella olandese a quella slovacca. Nelle premesse, una svolta netta verso l'antieuropeismo, che coinciderà con le ricadute del referendum sulla Brexit del 23 giugno. Non che i mesi della presidenza olandese guidata dal premier Rutte siano stati tutti rose e fiori per Bruxelles. Basti pensare alla vittoria dei no al referendum sull'associazione dell'Ucraina all'Unione. Secondo la Commissione un precedente pericoloso che, ha detto il presidente Juncker, potrebbe anche aprire la strada a una crisi europea. Ma almeno il governo olandese era solidale con le istituzioni europee. Veľmi otvorene chcem povedať, že európska politika, pokiaľ ide o migráciu, absolútne zlyhala. Il premier socialdemocratico slovacco Robert Fico, invece, lo è un po' meno. Negli ultimi mesi si è distinto per gli attacchi ai migranti e alle politiche europee di ricollocamento. L'Europa, ha detto vaticinando una prossima dissoluzione dell'Unione, usa una lingua indecifrabile che tratta temi incomprensibili per i cittadini ed è incapace di dare una risposta ai problemi da fronteggiare. Il programma del semestre, che sarà guidato da Bratislava al suo esordio in questo ruolo, non è ancora stato dettagliato perché dipenderà dall'esito del referendum britannico. Ironia della sorte, potrebbe essere proprio la Slovacchia, membro dal 2004, a coordinare l'uscita della Gran Bretagna, membro dal 1973, dall'Unione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di Europa 24. Un saluto da Adriana Fracchi. Ora la linea va a tutti i convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.